Economia in pagina di Gianfranco Fabi. Buonasera ai nostri ascoltatori. Questa sera parliamo di due libri di argomento un po' diverso. Il primo parla delle aziende, di come si gestiscono le aziende attuali e soprattutto del ruolo che le donne possono avere nelle aziende. È Womenomics in azienda di Aviva Whitworth Cox. Il secondo libro è un libro di attualità storica, potremmo chiamarlo così, è l'autobiografia di Friedrich von Hayek. Non parleremo con von Hayek, ma con chi l'ha curato, Lorenzo Infantino. Per il libro Womenomics in azienda abbiamo in linea Stefano Zamagni. Buonasera, professor Zamagni. Buonasera a tutti voi. Professor Zamagni è professore di economia politica all'Università di Studi di Bologna, già presidente dell'Agenzia per le Onlus, e ha scritto l'introduzione di questo libro, appunto, di Aviva Whitworth Cox, edito dal gruppo del Sole 24 Ore, Womenomics in azienda, come valorizzare i talenti femminili e trarre da un buon equilibrio di genere. Quindi parla dei rapporti in fondo tra uomini e donne, di come la partecipazione femminile al lavoro può essere importante per la sana gestione aziendale. Questo è valido anche in Italia, professor Zamagni? È valido in Italia e forse più, perché ciò di cui non si è preso atto è che è cambiato il modo di operare nell'azienda in generale e dell'economia. Ci sono cioè delle virtù che in azienda oggi pagano in epoca post-fordista rispetto al periodo precedente. Ebbene, la mia tesi che ho cercato di sviluppare nell'introduzione è che rispetto a queste virtù le donne hanno un vantaggio comparato rispetto agli uomini. Dunque non c'è motivo per non far accedere ai livelli alti della gerarchia aziendale le donne. E come mai in Italia c'è poca partecipazione delle donne al mondo del lavoro e anche, forse in dipendenza da questo, c'è poca partecipazione delle donne alle carriere lavorative? Beh, la risposta è duplice. Primo, non dimentichiamo che fino a tutti gli anni 70 l'Italia era un paese che esportava lavoro, emigrazione. Non c'era lavoro neppure per gli uomini, i quali dovevano prendere la via dell'estero. Era dunque ovvio che le donne venissero con argomenti vari, molte volte capziosi. Le cose sono cambiate nell'ultimo quarto di secolo e allora la domanda diventa: come mai? La risposta pure qui è semplice ed è che per rendere possibile la partecipazione delle donne al mercato del lavoro bisogna risolvere il problema dell'armonizzazione tra famiglia e lavoro, perché come anche il libro della Cox mette in evidenza, le donne vogliono sia avere famiglie e figli in particolare, sia realizzarsi nel mondo delle carriere aziendali di un tipo o dell'altro. Ma per far questo bisogna che intervengano interventi di welfare di nuovo stampo per consentire questa armonizzazione. Quindi è un problema più esterno alle imprese che non interno alle imprese, più di scenario esterno, di possibilità operative e di anche vantaggi che possono avere le donne nello scegliere appunto di restare in azienda. È chiaro, c'è però ovviamente una componente direi tipicamente maschile, e cioè la gelosia. Oggi gli uomini soffrono, io lo vedo all'università, di una gelosia inenarrabile nei confronti delle compagne della stessa età. Oggi sappiamo che ci sono più laureate che laureati in Italia e che la performance accademica delle laureate è di 2 punti superiore in media in tutte le facoltà, non solo nelle facoltà cosiddette tipicamente femminili. Questo evidentemente sta suscitando una forma di conflitto di genere che ancora non è esplosa, ma che se non viene opportunamente gestita esploderà, perché gli uomini non accettano di vedersi superare nelle capacità tipicamente organizzative, manageriali, dalle donne. Ecco, questo vuol dire che per allora imparare bene l'economia, capire i meccanismi dell'economia, è sempre più importante far capo anche ad altre scienze come la psicologia, come la sociologia, in quella che lei stesso nell'introduzione chiama economia comportamentale. È chiaro, basterebbe però dire, bisognerebbe cambiare i modelli, il paradigma dominante in economia. Perché l'economia ha preso l'andazzo di cui tutti sanno soltanto a partire dalla fine dell'Ottocento. All'inizio non era così, perché l'economia è una tipica scienza sociale ed è una tipica scienza morale. Quindi è solo perché l'abbiamo ridotta, probabilmente noi studiosi, in maniera irriconoscibile, facendo credere che questo era il prezzo da pagare per la scientificità. Abbiamo visto a quali risultati porta la cosiddetta scientificità. Il fatto è che il discorso economico è un discorso che tende a riguardare tutto l'umano, tutto l'uomo, non soltanto una componente. Ecco allora perché quando si recupera il discorso economico dalle basi, anche le ragioni delle donne risultano esaltate, ad esempio il principio o il valore di reciprocità, l'abilità relazionale, terzo il senso dell'equità, questi sono oggi valori che dentro le aziende offrono vantaggi notevoli e rispetto a questi valori le donne sono più brave, come ormai l'evidenza, non perché lo dica io, perché l'evidenza empirica oltre che i risultati di laboratorio lo confermano a tutto tondo. Grazie professor Zamani, quindi un libro sulle donne da far leggere soprattutto agli uomini in azienda. Vi ricordo Aviva Wittenberger Cox, Womenomics in azienda del gruppo Sole 24 Ore, sono 380 pagine per 24 euro. Buonasera, eccoci ancora tra voi. Dopo aver parlato di donne in azienda, parliamo di un libro di cultura economica, l'autobiografia di Friedrich von Hayek. Ovviamente non abbiamo qui con noi von Hayek, ma ne parliamo con il professor Lorenzo Infantino. Buonasera Infantino. Buonasera agli ascoltatori. Lorenzo Infantino, docente alla LUIS di Roma, ha curato la postfazione del libro, ma in tutto l'insieme del libro. E allora chiediamo a Infantino perché è attuale, perché bisogna parlare di Hayek. Adesso e in due parole, chi era Hayek per chi non lo sa? Credo che sia necessario rispondere a questa seconda domanda in primo luogo. Hayek è stato il maggiore pensatore liberale del Novecento, ha avuto la fortuna di poter essere attivo, di poter lavorare per circa 60 anni e quindi ci ha lasciato un grandissimo patrimonio di idee che noi utilizziamo sulle spalle di questi grandi personaggi. Hayek è stato un grande personaggio, siamo tutti obbligati a salire per vedere dall'interno dell'edificio teorico che essi hanno costruito quali cose noi possiamo utilizzare al presente, e ci sono molti materiali che sono degni di attenzione, di riflessione e di utilizzo. Ecco, in un momento come questo in cui il liberalismo è un po' messo sotto accusa, sembra essere la causa di tutti i mali, della crisi economica che sta appunto interessando tutto il sistema occidentale, il sistema di mercato, è il liberalismo di Hayek? Bisogna essere molto attenti quando si formulano queste accuse, perché la crisi che noi stiamo attraversando non è responsabilità del liberalismo, semmai è responsabilità del suo opposto, cioè a dire dell'interventismo. La grande crisi finanziaria è venuta alla luce e esplosa a causa di una degli errori di politica monetaria della Federal Reserve, e Hayek nel 1931 esordì alla London School of Economics con delle magnifiche lezioni in cui anche allora poneva in evidenza come gli errori monetari potessero determinare degli effetti devastanti. In effetti anche noi in Italia nel 2003, io personalmente ho organizzato un convegno alla LUIS di Roma su un'altra figura austriaca di grande rilevanza come Ludwig von Mises, che fu maestro di Hayek, e in quella circostanza con gli economisti presenti avevamo espresso la preoccupazione che la politica monetaria potesse determinare una grande bolla speculativa e quindi con tutti gli effetti poi connessi derivanti da questi errori di politica monetaria, perché per un lungo periodo di tempo, direi per uno straordinario periodo di tempo, sono stati tenuti i tassi di interesse ad un livello straordinariamente basso, e quando ciò avviene poi è inevitabile che si formino delle bolle speculative o che ci sia un rialzo dei corsi azionari, ciò che esattamente si è verificato. Mi è poi capitato in anni successivi di essere a Madrid visiting professor e di parlare degli stessi temi con altri miei colleghi economisti spagnoli, e tutti abbiamo espresso la nostra preoccupazione, sapevamo che prima o poi sarebbe esplosa questa crisi, perché la crisi è una esplosione di debiti, la crisi non è un fenomeno misterioso, la crisi incomincia nel giorno in cui una errata politica monetaria induce a fare degli investimenti che poi non possono essere portati a termine, e esplode semplicemente il giorno in cui c'è la incapacità di pagare i debiti, ma la crisi incomincia nel giorno in cui si incominciano a realizzare degli investimenti che non potranno essere portati a termine perché la politica monetaria ha indirizzato l'attività economica verso delle destinazioni, l'ha canalizzata nella direzione sbagliata. Ecco, nella sua postfazione lei parla dei rapporti tra Hayek e Einaudi, i rapporti tra Hayek e l'Italia. Già allora Hayek era una personalità riconosciuta come esponente di una scuola di economia? Sì, senza dubbio. Luigi Einaudi ebbe un rapporto molto intenso con gli esponenti della scuola austriaca di economia. Innanzitutto i rapporti sono cominciati con Ludwig von Mises, che incontrò Einaudi negli Stati Uniti d'America mi sembra che fosse il 1928, ma subito dopo i rapporti sono stati allacciati con Friedrich von Hayek e questi sono durati fino alla fine della vita di Einaudi. Voglio solo rammentare che qualche mese prima della morte di Luigi Einaudi si tenne qui in Piemonte, in Italia, una riunione della Mont Pelerin Society, che è un'associazione fondata da Hayek fra tutti gli studiosi liberali a livello mondiale, e in quella circostanza Luigi Einaudi fece la sua ultima apparizione. Quindi c'era un legame molto solido dovuto a una affinità culturale, a un'affinità ideologica, che non ha avuto soluzione di continuità. È durata e incominciata all'inizio degli anni 30, ancora prima che Hayek pubblicasse la sua prima opera importante, Prezzi e produzioni, aveva curato l'edizione tedesca del famoso saggio di Cantillon sulla natura del commercio, e in quella circostanza Einaudi volle che la prefazione di Hayek venisse tradotta in italiano e pubblicata sulla sua rivista La Riforma Sociale. Ecco. Un legame solido che poi si è sviluppato anche, che ha avuto anche delle ramificazioni con altri economisti italiani, perché Hayek entrò in corrispondenza sia con Marco Fanno ed ebbe un rapporto duraturo anche con Bresciani Turroni, che insomma è stato un altro esponente di primo piano della cultura economica italiana. Grandi esponenti appunto dell'economia, del liberalismo italiano, che andrebbero riscoperti, vanno riscoperti. Quello che può aiutare a questa riscoperta è anche questo libro, lo ricordo, Friedrich von Hayek, autobiografia, con postfazione di Lorenzo Infantino, che ringraziamo di essere stato con noi. L'editore è Rubettino, le pagine 250, il prezzo 16 euro. Grazie a chi ha partecipato a questa rubrica, così come ringrazio il tecnico Fabio Cantadori e Luca Cremonese e Stefania Tagliaferri in redazione. L'appuntamento è alla prossima settimana.